Sì, perché questa è tutta la vecchia, non aggiustiamo niente, cosa vuoi? I figli non vogliono rimanere qui, allora per noi due che siamo vecchi, Alfonso e io, ho detto, va anche abbastanza bene. Non c'è niente. Tutta la vecchia.